Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, state sentendo la sigla di Die Another Day, uno dei film di 007 più belli ancora con Pierce Brosnan. A me questo film interessa perché c'è Halle Berry che per poco non la tagliuzzano col laser. E non è un'operazione chirurgica, proprio la vogliono tagliare con il laser di un robot industriale. Perché? Perché il robot industriale che c'è lì è un robot KUKA. KUKA è un'azienda tedesca che è una delle principali produttrici al mondo di robot, insieme ai giapponesi di Fanuc e agli italiani di Comau, e molti dei suoi robot sono rappresentati al cinema. Non si limitano a tagliuzzare Halle Berry, che poi in realtà nel film reagisce come se stesse facendo altro, infatti non ve l'ho fatto sentire per quello, ma anche nel Codice da Vinci danno per esempio un documento segreto a Robert Langdon, e ce n'è anche uno nel parco divertimenti dell'Università di Orlando. Qual è il tema al di là della fascinazione cinematografica? Che tante volte si raffigurano i robot come fossero degli umanoidi, per cui nasce anche un dibattito sulla sostituzione dell'uomo, eccetera, eccetera. In realtà sono delle macchine, e forse se li si chiamasse macchine automatiche, al di là del fatto che dire che sono degli umanoidi attira di più l'attenzione, si riporterebbe più il dibattito a un certo realismo. Ma veniamo a noi. Oggi abbiamo come ospite Alberto Pellero di KUKA. Buongiorno. Buongiorno a voi. E parliamo dei robot di KUKA, in particolar modo, visto che gli ascoltatori di questa trasmissione hanno già sentito, soprattutto l'anno scorso, parlare molto di robot, parliamo della convergenza fra i robot e l'Industry 4.0, che è il passaggio evolutivo più importante. Ma prima di arrivare a questo, io volevo che Alberto Pellero, che si occupa di strategie in azienda, ci raccontasse di questo loro ultimo robot collaborativo dal nome impronunciabile. Sì, assolutamente difficile come da pronunciare, chiama? Perché si chiama LBR IVA, che in realtà è un acronimo che significa Light Bow Roboter, che in tedesco significa Lightweight Robot, quindi un robot leggero, e IVA significa Intelligent Industrial Work Assistant, quindi effettivamente quello che diceva lei prima, un robot, un braccio, una macchina automatica che assiste l'uomo nel lavoro. Il robot collaborativo si distingue dagli altri tipi di robot che si chiamano? Robot industriali tradizionali. Robot industriali, perché collabora a fianco dell'uomo. Può collaborare a fianco all'uomo, cosa che i robot tradizionali, i robot che si sono visti fino adesso, non potevano farlo perché erano sprovvisti di sensori, che possono essere semplicemente occhi o anche sensori di coppia di forza che analizzano l'interazione uomo-robot. Ecco, il fatto che ci siano i sensori che poi trasmettono i dati consente di collegare il robot in rete, di raccogliere dei dati e di far convergere il concetto di robot con il concetto di Industry 4.0. Ricordiamo che il concetto di Industry 4.0 non è un concetto americano come si crede, ma è un concetto tedesco nato nell'ambito della politica industriale tedesca, e al centro di questa elaborazione concettuale fatta nel 2011, che era Light Tech Strategy for Germany, c'era il concetto di Cyber Physical System. Dunque, il robot collaborativo che voi avete appena annunciato rappresenta un grado avanzato di Cyber Physical System tradotto in pratica. Assolutamente. I sistemi cyber fisici sono l'integrazione tra un sistema hardware meccanico e un sistema sensorizzato elettronico intelligente. Il fatto che questo robot, che si chiama LBR, abbia all'interno dei sensori, che sono fondamentalmente delle schede elettroniche che misurano istante per istante la coppia su ciascun giunto, ne fanno un robot più intelligente dei robot precedenti e quindi un robot che può analizzare le forze o le collisioni, ad esempio, con un operatore che gira intorno al robot. E soprattutto può mandare dei dati che poi vengono analizzati in quello che si definisce flusso dei big data. Assolutamente, i dati di lavoro, di interazione con l'uomo, di produzione possono essere spediti tramite delle interfacce che noi chiamiamo KUKA Connect nel cloud per andare a formare insieme a tanti altri dati quei big data che poi possono essere analizzati con varie finalità. Perfetto, e comunque per sapere che cos'è KUKA sentite questa scheda. KUKA Robotics è un produttore tedesco a livello mondiale di robot industriali e soluzioni per l'automazione industriale. Fattura circa 3 miliardi di euro e insieme all'italiana Comau e alla giapponese Fanuc è tra i leader mondiali del settore. Nel 2016 ha fatto scalpore nel mondo la notizia della sua acquisizione da parte dei cinesi di Midea. Il governo tedesco ha fatto di tutto per impedirla, temendo il rischio dell'appropriazione cinese di tecnologie strategiche, ma alla fine ha dovuto capitolare. Fino ad oggi, però, i cinesi hanno confermato il precedente top management, a cominciare dal CEO Till Reuter. Nonostante il basso costo del lavoro nel loro paese, i cinesi sono estremamente interessati a robotica e automazione avanzata. Nel 2016 hanno comprato 160.000 dei 300.000 robot prodotti nel mondo. In futuro è previsto uno sviluppo che li renderà protagonisti assoluti del mercato. KUKA è stata fondata nel 1898 nella città di Augusta da Johann Josef Keller e Jacob Knappich. Il nome KUKA deriva anche dalle loro iniziali. Inizialmente l'azienda si focalizzava su luci stradali e domestiche, ma ben presto KUKA cominciò a concentrarsi su altri prodotti, ad esempio macchinari e soluzioni di saldatura, grandi container, diventando nel 1966 il leader di mercato europeo di veicoli comunali. Nel 1973 KUKA inventò il primo robot industriale al mondo, chiamato Famulus. A quel tempo la compagnia apparteneva al gruppo Kant, azionista forte della BMW insieme al Land della Baviera. Tuttavia, nel 1980 la famiglia Kant si ritirò e fu istituita una società per azioni. Nel 1995 l'azienda si divise fra KUKA Robotics Corporation e KUKA Schweißanlagen GmbH, oggi KUKA System GmbH. Oggi KUKA si concentra su soluzioni all'avanguardia per l'automazione dei processi manifatturieri industriali. L'azienda appartiene alla quotata in borsa KUKA AG, precedentemente IVKA Group, che a sua volta ha come azionista di maggioranza da quasi un anno la già citata holding cinese Midea. L'industria automobilistica è quella che ha fatto uscire KUKA e in generale la madre di tutte le attività di robotica e automazione. Nel tempo però KUKA ha cercato di specializzarsi anche negli altri settori industriali, che oggi generano la metà del suo fatturato. Tuttavia il suo posizionamento riguarda l'intero ecosistema di automazione e non solo i robot, con la fornitura, anche grazie a partnership, di software, sistemi di comunicazione e tutto ciò che serve. A proposito di fatturato, non si può ignorare il grande sviluppo degli anni recenti, che hanno visto KUKA balzare da 1,7 miliardi nel 2012 agli attuali 3 miliardi. Certo, ci sono state delle acquisizioni, ma il loro fatturato ha contribuito a circa metà della crescita. Comunque, tutte le volte che si parla di robot c'è questo eterno, noioso, insensato, stucchevole dibattito sul fatto che il robot sostituirà l'uomo. Ed è veramente un dibattito insensato, perché voi pensate a quanti lavoratori avrebbero da fare se non ci fosse più la ruota, o a quante lavandaie potremmo retribuire se non ci fosse la lavatrice. Peraltro, se guardiamo un attimo i dati provenienti da varie fonti, certo, prima o poi la diffusione dell'automazione industriale sarà pervasiva, ma non so, negli Stati Uniti, nell'industria di tipo generale, ci sono 93 robot ogni 10.000 lavoratori, in quella automobilistica ce ne sono 1.218. In Giappone ce ne sono 1.276 robot ogni 10.000 lavoratori nell'industria automobilistica e appena 213 robot ogni 10.000 lavoratori. In Cina le percentuali sono ancora più basse. Lei cosa ne pensa, Pellero? Ma io penso, in merito al fatto che i robot rubino il lavoro agli operatori, innanzitutto che gli operatori probabilmente negli anni 2000 non abbiano tanto voglia di stare a fianco a una fornace a 500 gradi piuttosto che in una cabina di verniciatura con dei solventi. Quindi i robot spesso assolvono delle mansioni non piacevoli per l'operatore. In un altro ambito, la crescita esponenziale dei robot collaborativi fa sì che l'operatore non scompaia sulla linea, ma collabori con il robot che non può fare tutti i compiti che gli vengono assegnati. Quindi vediamo delle enormi prospettive di crescita dei robot e dei robot collaborativi, e in particolare nei paesi emergenti come la Cina, dove vediamo già oggi essere il mercato principale per l'utilizzo e la vendita dei robot. Oltretutto, per noi occidentali, la crescente automazione ha due grandissimi vantaggi. Il primo è che elimina la necessità di delocalizzare per essere competitivi sui costi. Anzi, le fabbriche automatizzate conviene averle qui, perché se quello che conta è l'intelligenza del prodotto, noi qui alla fabbrica automatizzata possiamo offrire un contesto fatto di istituti di ricerca, società di consulenze, fornitori e quant'altro, che nei paesi in via di sviluppo, dove si va a delocalizzare per la bassa manodopera, non c'è. Il secondo è che si aumenta moltissimo la produttività. Aumentando moltissimo la produttività si aumenta il reddito, ci sono più soldi in giro e aumentano più posti di lavoro altrove, no? Assolutamente sì, perché comunque non si continuano a produrre sempre gli stessi numeri di oggetti, ma se ne producono di più, ma con caratteristiche tecnologiche aumentate, cosa che con la produzione tradizionale o manuale non si può fare. Non dimentichiamoci che molti dei robot che vengono venduti in Italia sono per esportazione. Questo fa dell'Italia. Vengono prodotti in Italia. Vengono prodotti in Italia o prodotti all'estero, vengono venduti in Italia a delle grandi e importanti ditte, più o meno piccole o grandi, chiaramente, di automazione, che fanno dell'Italia il leader in Europa sugli impianti di automazione. Quindi gli esperti di meccatronica senz'altro sono il futuro. Ciononostante, non bisogna ignorare che ci sarà un problema momentaneo per alcuni anni, un problema nel momento di passaggio tra un sistema e l'altro. Per esempio, i magazzini o i porti hanno ancora un'ampia manodopera manuale che verrà totalmente spazzata via dall'automazione, perché l'uomo che guida il carrellino, essendo il carrellino automatizzato, va a casa e magari c'è anche 50-55 anni e non può fare nulla. Ma questo qua non è un problema che è colpa dei produttori di robot o che è colpa delle aziende che invece devono usarli, perché se li usano restano competitive e quindi possono sopravvivere e dare lavoro. Questo è un problema politico e va risolto non dando la colpa alle aziende che sono brutte e cattive perché fanno i robot o usano i robot, va risolto col welfare. E noi di welfare abbiamo bisogno, anche perché è un modo di far crescere la domanda interna che, sostenendo i consumi, poi aiuta a rimettere in moto tutto. Delle prospettive della robotica e dei robot Kuka ne parliamo nella seconda parte della trasmissione. Adesso ci sono gli avvisi sul traffico e la pubblicità, ma dovete assolutamente restare con noi. Guai a cambiare canale. Fabbrica 2.4. vi sto facendo sentire ancora un po' di 007 con i robot Kuka che tentavano di tagliuzzare, purtroppo senza riuscirci, Halle Berry, e Halle Berry adesso è ancora fra noi, e questo è un po' lo spunto per arrivare a parlare ancora di robot Kuka. Già nella prima parte della trasmissione abbiamo avuto il nostro ospite Alberto Pellero, che è il responsabile delle strategie e che adesso è ancora con noi. Allora, Kuka offre i robot, e in questo complete con Fanuc e con l'italiana Comau, ma soprattutto, se vado a vedere il vostro sito, dottor Pellero, vedo che voi offrite anche in collaborazioni con altri partner soluzioni complete per la creazione di un ecosistema, e questo è il passo in avanti. Quindi non solo e non tanto il robot in fabbrica, quanto il sistema di comunicazione, il sistema di gestione, il cloud, il software e quant'altro, giusto, no? Assolutamente sì, il robot, come diceva lei, è inteso come un braccio automatico, come potrebbe essere una macchina automatica che produce pannolini, o comunque sia un qualsiasi genere di macchina automatica, ma poi il tutto va integrato in un sistema che dà un servizio al cliente. Noi andiamo dalla fornitura del prodotto fino alla linea completa, fino al settore logistico, con anche l'acquisizione della ditta Swisslog che realizza sistemi di logistica e di magazzini automatici. Cioè, intende dire che avete acquisito Swisslog qualche anno fa, che fa parte del gruppo Kuka, e quindi c'è anche tutta la realizzazione del magazzino automatico. Magazzino automatico vuol dire che i carrelli sono pilotati automaticamente seguendo un particolare software, e tutto ciò è reso possibile anche dal cloud. Assolutamente. Probabilmente i magazzini automatici sono i primi a essere arrivati a analizzare quelle che sono le informazioni dal cloud, quindi l'ERP, la gestione delle risorse e del planning delle risorse, influisce senz'altro la logistica in primis. Oggi però anche la robotica ne usufruisce pesantemente, tutti i dati di produzione vengono trasmessi in automatico alle stazioni robotizzate, che a loro volta trasmettono quando stanno finendo ad esempio i materiali, per andare a riapprovvigionarli, quindi a comunicare con la catena dei fornitori, la supply chain. È tutta una catena legata da informazioni che sono sul cloud oggi. Il cloud può anche fare sì che i robot non abbiano più ciascuno una intelligenza locale, cioè che non ci sia più un cervello, fra virgolette, di ogni robot, ma che il robot segua istruzioni mandate in remoto da lontano attraverso la rete informatica e poi il cloud, e quindi sia totalmente privo di intelligenza locale. Sì, questo è ciò che si chiama cloud manufacturing, quindi la possibilità, ad esempio, di utilizzare strumenti di progettazione e programmazione CAD/CAM che risiedono su cloud fisicamente. Per mandare istruzioni di lavoro a robot che ad esempio sono in facilities o in Cina o negli Stati Uniti, allo stesso modo, senza intervenire fisicamente sulla stazione robotizzata. Ecco, e quindi questo potrebbe magari fare di risparmiare tutta una serie di cavi che ci sono all'interno di un robot oggi. Assolutamente sì, ma anche risparmiare trasferte di personale tecnico che ad esempio dalla sede italiana si deve muovere verso la sede tedesca o cinese per mettere in avviamento un sistema robotizzato. In questo momento io lo posso fare in maniera remota tramite l'utilizzo delle tecnologie web e del cloud. Questo è interessante e supporta quello che dicevo io prima, che in realtà l'automazione fa venire meno molte esigenze di delocalizzazione. Assolutamente, innanzitutto i viaggi, per dire. Perché... Ma a parte i viaggi, non c'è più bisogno di trasferire all'estero tante cose che possono rimanere qua, visto che si parla anche dell'interesse alla crescita della nostra economia. Assolutamente, ai tempi si parlava di teleassistenza, quindi mandavamo gli impianti negli Stati Uniti e li vedevamo tramite webcam e tramite collegamento dei server. Oggi si parla di cloud manufacturing, quindi mandare istruzioni di produzione e di progettazione di linee in remoto senza fisicamente essere presenti. Senta, Kuka ha anche un primato nell'automazione della sanità. Voi che cosa fate nella sanità? Ma allora, nella sanità abbiamo varie attività che vanno dalle attività dell'healthcare che sviluppa la Swisslog e quindi in quella che è la farmacia automatica, quindi nella distribuzione di farmaci negli ospedali. In modo automatico, per cui c'è un macchinario che indica orari e necessità e dispensa il farmaco basandosi sulla singola pastiglia e sulla singola goccia o la singola quantità di liquido e non più sul concetto di confezione che è dispersivo? Esattamente, il macchinario prende le confezioni e i blister, li spacchetta, separa le pillole o ciò che c'è da somministrare e fa una dose di N pillole differenziate per il determinato paziente e la manda nella catena logistica distribuendola ad esempio con la posta pneumatica nei vari dipartimenti di un ospedale. Ma questo era quello che si faceva forse anche a mano? Questo si faceva a mano, queste sono macchine automatiche che evitano di farlo a mano, ma la robotica medica va molto oltre, ad esempio con la robotica che usa Siemens per la terapia protonica, dove il robot funge da manipolatore di una sorgente per terapia, potendo usufruire dei 6 gradi di libertà del robot, che fondamentalmente gli danno la possibilità di muoversi con una precisione centesimale in un'area di lavoro estremamente più ampia rispetto a quella che può avere una macchina per la TAC, che chiaramente ha un'automazione circolare, mentre il robot può consentire un'automazione sferica. Quindi, ad esempio, nel trattamento dei tumori al cervello, il robot può consentire un posizionamento della sorgente estremamente più ampia e più precisa rispetto ad altri strumenti. Questo non è poco. Senta, però mi interessava tornare sul tema della digitalizzazione della robotica attraverso l'Internet of Things. Su questo mi piacerebbe avere qualche sua considerazione in più. Sì, KUKA sta muovendo i primi passi nel mondo di Internet of Things con l'apertura di una grossa sede in Texas dove si sviluppa esclusivamente software, avendo come strategia per il futuro di essere una ditta che al 30% del suo business vende software e non vende hardware, quindi fusioni per fare robot come invece faceva prima, per il 100% del suo business. Questo significa che ci stiamo muovendo molto in questo mondo, ma concretamente oggi abbiamo sviluppato dei pacchetti hardware e software, dei gateway, per collegare tutte le periferie di un sistema robotizzato al cloud e mandare tutti i dati nel cloud. Comunque, siccome abbiamo esordito con argomenti leggeri e con 007 per avvincere i nostri spettatori, i nostri ascoltatori, potremmo concludere con la balla spaziale dell'anno. E secondo me la balla spaziale dell'anno è la tassa sui robot. Ora, capita, indipendentemente da chi le dice, capita raramente di sentire stupidaggini come questa. Perché? La tassa sui robot, se venisse applicata, dovresti applicarla in tutto il mondo, altrimenti poi l'azienda che deve competere sui costi cosa fa? Porta i robot in Cina. Quindi noi, grazie ai robot, potevamo tenere le fabbriche qua, facciamo la tassa sui robot e li portiamo in Cina. E poi, in controsenso, cosa facciamo? La tassa sulla maggiore produttività? La tassa sull'automazione? La tassa sull'innovazione? Che era come dire, quando hanno inventato il telaio elettrico, gli mettiamo una bella tassa, così non è conveniente usarlo e teniamo ancora le persone nei telai a mano. Ma io non so come si possa concepire e anche dare serietà a una fesseria di questo genere, che è proprio una fesseria di quart'ordine, è una cosa indegna, è un insulto all'intelligenza di chiunque. Non so che ne pensa lei. Sì, io mi sto facendo un'idea in questi giorni, mi sembra che sia una proposta di Bill Gates. A me verrebbe dire... Ma veramente allora è invecchiato. Perché non mettiamo la tassa sui computer? Quante persone risparmiano di lavoro un computer? Lo risparmiavano 20 o 30 anni fa. E perché non è stata messa sui computer? Mettiamo la tassa sulla ruota, perché si potevano portare i carri a mano, così sai quanti lavoravano. Beh, comunque non penso che avrà un grosso seguito questa sì proposta. Ma però c'è stato un dibattito giornalistico in Italia su questa fesseria, questa cosa assurda. Dai, facciamo la tassa sui robot, così le multinazionali fanno tutti i robot in Cina e noi abbiamo fatto la tassa sui robot e ci sentiamo più intelligenti. Vabbè, bisogna chiudere, ci sentiamo domani alle 13:10. grazie ad Alberto Pellero, grazie e a grazie voi. A tutti gli ascoltatori.